e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Cuore e denari Expo. Correte, camminate, nuotate, giocate a golf, andate a cavallo, a vela, in palestra, fermatevi con noi. Oggi è il caso di dire, troverete pane per i vostri denti. La puntata di Cuore Denari Expo è infatti dedicata agli sportivi. Termine in realtà che si riferisce sia a chi lo sport lo pratica, sia a chi lo sport si limita a seguirlo, anche se con grande passione, dal divano. Voi che tipo di sportivi siete? A quale dei due gruppi appartenete? Buongiorno al dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano e direttore scientifico di Eurosalus, la piattaforma che ospita i nostri questionari. Lei è un super sportivo. Sì, direi che abbastanza, insomma, ho le mie 3 alzate mattutine presto alla settimana in cui vado a correre e poi una volta alla settimana ho un'attività di palestra con una personal trainer che mi aiuta a tonificare. Perfetto. Per cui funziona, da questo punto di vista c'è. Che tipo di sportivo ha risposto al nostro questionario, dottor Speciani? Ah, bellissimo, hanno risposto per il 67% uomini. Devo dire questa cosa, sono i più numerosi dopo gli stressati, quindi stressati e sportivi sono maggioranza maschile, almeno per quello che riceviamo dai nostri questionari. E adesso dovremmo farci delle domande, ma dedicheremo un'altra puntata. E poi i più pigri si muovono 3 volte alla settimana, fanno attività fisica. Quelli normali, diciamo che sono circa il 50% di quelli che hanno risposto, 4 volte alla settimana, e i più attivi, in una percentuale del 21%, tutti i santi giorni, non c'è giorno in cui non facciano altre, e fanno anche più cose, non è che si fermano ad una sola attività. Il 61% fa corse, il 42% palestra, il 24% fa nuoto, il 16% fa sport di squadra, quindi abbiamo superato già abbondantemente, perché tutti, quasi tutti, diciamo che il 90%, fanno almeno 2 attività nel corso della loro giornata. Allora, tra i tanti sportivi uomini, la nostra scelta invece è caduta su una giovane donna. Andiamo a conoscerla. La mia attività fisica, in base agli impegni lavorativi, in media si divide in 2 sedute di corsa, una di bici e una di nuoto. Lei è Linda, ha 28 anni e lavora come assistente ai ragazzi disabili in una cooperativa ed è istruttrice di sala pesi e nuoto in un centro sportivo. E allora muoviti, muoviti! Cominci a muoverti, muoviti! Mi sono laureata in scienze motorie nel 2011. Ho sempre fatto attività fisica, però ho sempre anche tanto amato il cibo. Quindi non ho mai attuato il binomio studiato all'università attività fisica e alimentazione. Linda fa la spesa 2 volte a settimana in un supermercato e in un negozietto di frutta e verdura. Ama comprare latticini, pasta, anche affettati, carne, pesce. Mi piacerebbe comprare tutto, perché io faccio sempre spese incredibili. Sembra di avere una famiglia di 11 figli. Ho fame, mamma, ho fame. Andiamo, Rolly. Linda, sei la nostra candidata per la categoria degli sportivi a Cuore Denari Expo. Che cosa ti aspetti da questa esperienza? Vorrei riuscire nei miei 2 obiettivi, una gara di mountain bike a fine giugno e una gara di corsa a metà luglio, e avere tutte le energie possibili. Benissimo, Linda è in linea con noi. Ciao Linda, quindi sei pronta, carica e motivata? Buongiorno a te. Buongiorno, più che carica, eccoti, e più che motivata. Senti, Linda, durante la tua presentazione ci hai parlato anche di una dieta che è iniziata a marzo e che però non ti ha dato molte soddisfazioni. Sì, esatto, perché era una dieta ipocalorica, però non mi ha insegnato che cosa mangiare prima, durante e dopo un allenamento o una gara. Che è proprio invece un'informazione che voi sportivi chiedete spesso ai nostri esperti. Che cosa ti ha spinta a partecipare a Cuore Denari Expo? Che cos'è che ti ha fatto scattare il click? Allora, appunto, vorrei imparare a mangiare e soprattutto abbinare correttamente i cibi per ottenere vantaggi nella mia attività sportiva. E soprattutto vincere queste due... Oddio, è importante partecipare, o piazzarti. Senti, Linda, tu sei in ottime mani. Oggi noi ti affideremo al dottor Luca Speciani, che è qua in studio con me, medico e dottore in scienze agrarie con master in nutrizione dietetica, runner, triatleta. Non male. È responsabile. Stai lì, Linda. Senti, è responsabile medico nutrizionale della nazionale di ultramaratone, per cui magari ti verrà voglia anche di fare un'ultramaratona. È autore di numerosi libri, di cui l'ultimo, Mangia, Muoviti, Ama, di cui vi consiglio la lettura, perché è scritto a quattro mani anche con un grande psicologo, Giorgio Nardone, che è stato anche ospite di Cuore Denari, in cui analizzano sei malattie più tipiche di questa nostra epoca e danno una lettura clinica e psicologica. Intanto, dottor Speciani, grazie per essere con noi. Fratello di Attilio. Sì, dobbiamo dirlo. Sì, cioè, buongiorno. Nepotismo. Con noi, Linda, ad aiutare il dottor Luca Speciani abbiamo anche Alessandro Rosini, chef del gruppo Ethos, attualmente a capo della brigata di cucina del ristorante Grani e Baci di Via Farina a Milano. Ciao Linda, piacere. Ciao. Buongiorno. Alessandro, ecco, allora Linda, puoi fare un'ultima richiesta, poi tu continui, vai a lavorare, vai a correre, fai quello che vuoi, io li metto al lavoro, troverai tutto naturalmente quello che ti servirà per lavorare anche un po' sul tuo stile alimentare, non solo sulle pagine di Cuore Denari Expo. Dimmi l'ultima richiesta da fare ad Alessandro e al dottor Speciani. Allora, le mie richieste sono appunto quello che ho detto prima, di effettuare al meglio le due gare, la gara di mountain bike e la mia prima mezza maratona a metà luglio. Per fare questo devo ancora togliere 2-3 kg per migliorare appunto le mie prestazioni. E il mio tallone d'Achille, lo devo ammettere, sono le caramelle gommose. Lo so che non si dice. Ho visto che ormai devo dire Luca Speciani, devo dire nome e cognome, ha avuto un piccolo mancamento. Se mi fai svenire già il Dutour qua, va bene, caramelle gommose, però questa mezza maratona, il dottor Speciani allena quelle che fanno le ultra, per cui no, volerai, ti metterà le ali ai piedi. Grazie Linda. Grazie a voi, grazie mille, grazie dell'opportunità. Allora, dottor Speciani, parliamo di sportivi amatoriali, no? Non di sportivi professionisti. Io ho invitato anche però gli sportivi da divano a chiamare, magari si portano a casa un consiglio oltre che il volumetto sul metabolismo. Comunque, chi può definirsi sportivo? Che cosa ci fa rientrare a buon diritto in questa categoria? La frequenza, le ore passate a dedicarci a un'attività? Chi è? Allora, la cosa importante secondo me è capire che tutti dobbiamo fare del movimento, cioè non possiamo esimerci dal muoverci. Quando le persone entrano nel mio studio si dice ridendo che entrano sedentari e escono sportivi, perché fa parte della nostra vita. Noi ci sono anche degli studi su questo molto interessanti, uno importantissimo apparso su Nature nel 2004, che dice che noi siamo macchine fatte per fare del movimento fisico. Sì. Se non lo facciamo paghiamo un debito nei confronti della nostra salute, quindi lo sportivo va da quello che incomincia magari a fare qualche camminata del nordic walking, cominciare a muoversi in un parco eccetera, fino allo sportivo agonista con tutti i livelli intermedi, e va sempre bene. È importante anche farlo con gradualità, quindi iniziare a fare quello che si riesce a fare, è inutile forzarsi troppo. Certo. Però è importante che ci si consideri tutti sportivi. Ecco, quelli che pensano che si tratti magari così, la sedentarietà è magari un'occasione perduta, poi domani lo farò. No, la sedentarietà è un elemento, esatto, da oggi, da subito. Cuore e Denari Expo. Se io mi sento dei chili addosso di sovrappeso e penso ad esempio di mangiare di meno per perdere quel peso, sto sbagliando, perché se io vado a mangiare di meno vado a indebolire una serie di segnali ormonali che invece mi servono per fare attività sportiva in maniera efficace, efficiente. Quindi è importante concentrarsi invece sulla qualità del cibo, perché lo sportivo è una persona che ha bisogno di benzina di alta qualità. Se io metto noi per la nostra automobile siamo tutti attenti, no? Prendiamo l'olio migliore, invece per il nostro corpo tante volte risparmiamo su questo, su quello. Quindi il costo va bene, il prezzo d'accordo, però dobbiamo cercare a un prezzo ragionevole prodotti di alta qualità. Per lo sportivo ci sono quattro regole importanti che vanno seguite: normocaloricità, normoproteicità, equilibrio minerale e protezione antiossidante. Sono quattro regole così enunciate veloci. Sì, me le ripeta. Allora, normocaloricità vuol dire mangiare tutto ciò di cui abbiamo bisogno da un punto di vista calorico. Sì. Normoproteicità proteicità vuol dire coprire l'intero fabbisogno proteico di cui abbiamo necessità, perché noi tutti siamo fatti di proteine, le nostre cartilagini, le nostre ossa, i nostri muscoli, ma anche la nostra pelle, il nostro collagene, cioè tutto, abbiamo bisogno di proteine in quantità adeguata. Ecco perché mangiarle al mattino per incominciare bene, poi anche a pranzo e a cena naturalmente. E poi abbiamo bisogno di una copertura minerale, ecco il discorso dei crampi, e antiossidante, per quindi questa grande necessità di frutta, verdura, cibi sani. Quali sono i minerali importanti che sono per tutti, ma lo sportivo in modo particolare? Abbiamo una sportiva donna di 28 anni, le donne in età fertile hanno spessissimo carenze di ferro, noi andiamo a vedere sugli esami del sangue magari il valore della sideremia, che è quasi sempre a posto, però magari la ferritina ha un valore che non è asteriscato, però è 12, 15, 18, sono valori molto bassi su cui bisogna magari intervenire con un'integrazione e poi capire se magari la mestruazione abbondante può essere una causa importante di perdita. Per i maschi perdita. Invece che non hanno questa fortuna? Sì, per i maschi talvolta si trovano delle carenze di potassio, delle carenze di magnesio, anche qui delle carenze di ferro, talvolta legate anche al fatto per esempio che la corsa rompe dei globuli rossi tutte le volte che noi corriamo, qualunque tipo di sport che comporti un impatto con il terreno, anche non so, pallavolo piuttosto che tennis o altro, comporta una rottura di globuli e quindi anche qui una perdita di ferro che va recuperata. Vado ad Alessandro, perché tu hai interpretato quelli che sono i messaggi del dottor Speciani, quindi hai cercato di costruire, di bilanciare le ricette in modo che fossero normocaloriche, normoproteiche e ricche anche di tutte quelle vitamine, sali minerali di cui lo sportivo, e non solo lo sportivo, ha bisogno. Alessandro, fammi un esempio di una settimana così i nostri amici da casa si alluzzano. Ok. Per esempio possiamo citare il sabato nel piano di dieta che abbiamo preparato per la nostra sportiva, dove magari avendo un pochino più di tempo per cucinare abbiamo ad esempio messo per quanto riguarda la colazione un centrifugato di frutta e verdura, che quella non devono mai mancare, sì, sempre in e poi abbondanza. Si fa veloce, esatto. Basta bere la centrifuga, poi un pancake salato con farina di avena sempre integrale. Quanto ci si mette a farla? Ma se no devi minuti, venire tu pochi minuti sono cose tempo semplici, che si scalda la padellina, esatto, e via. E poi sempre a colazione anche dell'arrosto di tacchino freddo, ma a chi non piace ad esempio come a me il salato a colazione? Attilio. C'è il dottor Noce che interviene sempre. Bene. E che ti porta un mucchio di mandorle, ti fa mangiare delle cose di questo perfetto. Genere. Oh, là, o semi oleosi, o le uova. Perfetto. Ma poi l'uovo non è salato, no? L'uovo si può fare anche come omelette dolce, sì, con le mele, con la cannella. Abbiamo messo anche una proposta di un'omelette dolce e sfiziosa da mangiare al mattino, poi la nostra sportiva okay. vedrà. Dai, usciamo a fare la spesa. E dai, tra una corsa e l'altra, tra un allenamento e l'altro, tra un esercizio e l'altro, anche al nostro sportivo, alla nostra sportiva, perché è Linda, il capofila del gruppo di oggi, toccherà prima o poi fare la spesa. Linda ci ha raccontato che si occupa solitamente in prima persona della spesa, che abitualmente si reca presso supermercati o ipermercati per una grande spesa settimanale. Nel suo carrello non mancano mai pasta, frutta e verdura di stagione, carne, pesce, salumi, affettate. Il prezzo è più importante per lei della popolarità del marchio che sta acquistando. Chissà cosa ne pensa il nostro Luciano Mazzone di Clicca Promo, che è qui vicino a me, è arrivato da poco ma è già pronto, bello gagliardo, sportivo? Mediamente sportivo. Perché si può anche andare a fare un po' di sport andando a fare la spesa. Certo, beh, con le buste dell'acqua sono praticamente equivalenti a dei manubri da 10 kg. Vedi? Allora, che cosa ne pensa di questa così attitudine di Linda? Un po' pazzi per le offerte anche Linda, no? Beh, non posso far altro che sposarla in pieno. L'attenzione al risparmio e ai prezzi è uno dei nostri cavalli di battaglia. Invito sempre a non sottovalutare la qualità, sono due cose in realtà non in contrapposizione. Non è che spendere poco significhi rinunciare alla qualità, grazie alle offerte è possibile comprare prodotti di qualità scontati. Infatti il dottor Attilio Speciani è stato soprannominato da noi dottor Noce, ma poi è il fil rouge di tutto Cuore Denari Expo, mentre Luciano Mazzone, amministratore delegato di Click Promo, pazzi per le offerte, lo possiamo definire il nostro coach di risparmio, no? Perché Click Promo compara i prezzi e le offerte della grande distribuzione e ci permette anche di individuare molte opportunità di risparmio, anche naturalmente segnalate per i protagonisti di Cuore e Denari Expo. Vi ricordiamo che nella sezione speciale del nostro sito dedicata al progetto, per ogni categoria, attenzione, insieme ai consigli di salute e i menu, trovate anche la lista dei prezzi e della spesa, e per ogni spesa la squadra di Click a Promo ci aiuta a individuare il possibile risparmio. Mazzone, possiamo fare qualche considerazione sulle abitudini di spesa della nostra sportiva Linda? Ma allora, sulla lista stilata per gli sportivi le considerazioni sono due. La prima è che è sicuramente molto meno godereccia rispetto a quella dei conviventi di settimana scorsa. Non ci sono infatti i salumi, anche se Linda dice di acquistarne in grande quantità, e invece abbondano frutta e verdura. La carne rossa è sostituita dalla carne bianca e tutte queste scelte ampliano le opportunità di risparmio rispetto a diete più particolari o più spendaccione, diciamo così. Lei comunque continua a seguire i consigli del dottor Speciani, del dottor Attilio, sì. Che era il coach, è il coach degli over 50, 50, certo, ecco, assolutamente, e quindi ha inserito le proteine con grande soddisfazione al mattino, e infatti io settimana di settimana lo vedo sempre più bello. Ma è la tua presenza. Ma ci innamoreremo di questo Luciano Mazzone. Dai, usciamo a fare la spesa. Se ci siete stati da poco, vi ricordate un prezzo? Se proprio in questo momento magari state facendo la spesa, oggi scegliamo due prodotti: pollo e pasta o riso integrale. Luciano Mazzone. Sì, esattamente, sono due degli ingredienti principali della lista della spesa stilata per gli sportivi, appunto. Ci sono anche, c'è la possibilità anche un po' di risparmiare, sfrugogliamo un po', ci aiuti un po' a mettere, no, a portare a casa un po' di affari. Allora, le opportunità di risparmio sono davvero notevoli. Si diceva di frutta e verdure di stagione, io dico sempre che presentano tre grossi vantaggi: costa decisamente meno, si trova tipicamente in sconto al 40-50%, è migliore dal punto di vista del gusto ed è una scelta anche più eco-consapevole, perché tipicamente si tratta di prodotti nazionali e non di prodotti importati da chissà dove. Segnalo l'opportunità di risparmio veramente consistente in termini assoluti oltre che percentuali sul parmigiano reggiano, e poi, che dire, pollo e pasta integrale, ci sono anche dei coupon disponibili che segnaliamo. Parmigiano reggiano, Luca Speciani, ci piace per lo sportivo? Allora, io ho una posizione nei confronti dei formaggi che è di consumo consapevole, no? Di consumo moderato. Noi suggeriamo di un consumo per autoregolarsi magari un paio di volte alla settimana, ecco, e tra questi il parmigiano reggiano rappresenta una delle scelte sicuramente più positive. Allora, Mazzone, torniamo alla nostra lista dei prezzi per la nostra sportiva, analizziamoli insieme: quanto si spende, quanto si riesce a risparmiare, ci sono delle particolarità? Ma allora, il totale di questa lista assommerebbe a prezzo pieno a più di 50 euro, circa 52. Utilizzando le offerte si può scendere di circa il 29-30%, intorno ai 35-37 euro. In più c'è l'opportunità di coupon sulla pasta integrale da 500 grammi, in cui si può aggiungere un ulteriore euro di sconto, oltre che sulle uova con un altro euro di ulteriore sconto. Quindi quanto spenderemo, scusi che me la sono persa, intorno ai 35 euro. Utilizzando tutti gli sconti. Utilizzando tutte le opportunità di risparmio, le offerte messe in campo dai supermercati e i coupon resi disponibili dal nostro servizio. E quindi basta andare anche su Click a Promo, potete andare sulla pagina di Cuore Denari, potete andare su Click a Promo, attivatevi, anche cercare le offerte, no? Fa parte di fare un po' di attività sportiva, anche assolutamente. Quella, almeno della mente. Cuore Denari Expo. molti ascoltatori ci dicono: voi dite bene, però io passo la mia vita in macchina, come faccio a seguire tutte le vostre indicazioni? E lì bisognerebbe sottomettere un po' negozianti, ristoranti, autogrill, eccetera, a fornire dei cibi di qualità, perché lo slogan che possiamo buttare lì così, tanto perché rimanga impresso, è questo: cioè, se la qualità del cibo è perfetta, la quantità può essere quasi illimitata, perché con una qualità del cibo perfetta il corpo si autoregola. E nel caso dello sportivo, se noi pensiamo a una persona, non so, metabolismo basale di 2000 calorie di una persona adulta, ecco, se fa tanto sport, magari aggiunge anche altre 3000 calorie di fabbisogno, cioè non è detto che il fabbisogno aumenti moltissimo, e lo stomaco è grande sempre uguale. Quindi se noi mangiamo cibi di cattiva qualità, farine raffinate, quindi prive di minerali, zucchero raffinato, eccetera, noi ci troviamo ad avere una benzina scarsa. Allora, se noi mangiamo invece cibi sani, e questo richiede un atteggiamento attivo, dobbiamo andare al ristorante e dire: mi fa la pasta integrale, no? E quando il ristoratore dice: ah, ma noi non siamo a dieta, si gira i tacchi e si va in un altro ristorante, cioè cercare di pretendere anche, no? Oppure nella mensa dell'azienda, della scuola, eccetera, pretende. Quindi la soluzione per un atleta che fa rugby, che fa camminate in montagna, ha tanto consumo, quindi ha bisogno di tante calorie, di tanta energia per coprire questo consumo e delle giuste proteine, deve mangiare cibi di qualità in abbondanza. Se mangia cibi di non qualità, è inevitabile che questi si depositino sotto forma di grasso, e quindi alla fine ci troviamo nella contraddizione. Luciano Mazzone, si può scegliere cibi di qualità puntando un po' sulle offerte. Assolutamente, e ritorniamo sì. Di nuovo a Clicca Promo, ma poi vado da Tiglio Speciani. Sì, sì, dai, che ti do tre dati, faccio la Deborina della situazione. Perché sono in continuo tweet con Pier Mario, che è l'over 50 che stiamo seguendo da più di tre settimane, che ci dice che facendo questo tipo di cambiamento stiamo continuando a perdere praticamente mezzo chilo per settimana, e è già arrivato ad avere quasi raggiunto i 4 cm di circonferenza in vita migliorata. In realtà quello che ha fatto, ha cambiato la qualità, ha fatto come Mazzone, ha iniziato a mangiare proteine al mattino. E gli abbiamo tolto un po' di zucchero. Allora, che noi abbiamo reso Mazzone un uomo migliore, giusto? Sì. Con le proteine. Lei ci faccia spendere poco. Su. Allora, il consiglio che posso dare è appunto quello di cercare fra le offerte dei supermercati intorno a sé e fra i coupon che noi rendiamo disponibili con il nostro servizio Pazzi per le Offerte. Considerate che ogni settimana, ogni giorno, sono disponibili mediamente intorno a voi dalle 2 alle 3.000 offerte promozionali su prodotti di marca e spessissimo di ottimo qualità, quindi mi sento di sposare quello che si diceva prima: fate tranquillamente incetta al supermercato di quello che è in offerta, in sconto, di qualità, perché la scelta sia dal punto di vista alimentare sia dal punto di vista del risparmio assolutamente vincente. E poi se togliamo le caramelle Mu, abbiamo già risparmiato un sacco di soldi. Questa è per Linda. Alessandro, che trucchetti ci regali? Per esempio, si potrebbe prodursi, diciamo, in casa delle fette biscottate integrali, comode anche per la colazione, sì. Utilizzando il pane fresco acquistato in giornata, tagliandolo magari a fettine molto sottili e facendolo dorare in forno. Il giorno dopo diventa perfetto per avere delle fette biscottate integrali, appunto, caserecce. Sì. Oppure se magari produciamo un po' di pasta piuttosto che di riso in più in cottura, ne teniamo magari sempre un pochino di scorta per il giorno dopo, per avere un'insalatona fredda con della carne avanzata cotta. E si mescola il tutto, lo fa anche Luciano Mazzone, sempre, mi sa. Ma sì, cosa esatto. Mi diventerà? E noi cosa diventeremo con Clicca Promo e i consigli dei nostri esperti? E i consigli dei nostri esperti ci aspettano ancora tra pochissimo, dopo una piccola pausa. Se la prima parte della puntata l'abbiamo dedicata agli sportivi, la seconda è invece pensata per i vegetariani e i vegani. A tra poco con Cuore Denari Ex. Tutto il cibo del mondo. Da dove arriva il pomodoro? Chi sostiene la terra? Le domande dei bambini, le risposte degli scienziati. Da cibo a evoluzione, da spreco a sostenibilità. Le grandi parole di Expo raccontate ai più piccoli. Telmo, sei sicuro? Riusciremo a spiegare anche parole tipo biodiversità? Certo, Federico, è la diversità degli animali e delle piante, e ci sono un sacco di sorprese. Tu, per esempio, sapevi di essere parente della banana? No, però vabbè, se lo dice un filosofo della scienza, mi sa che ci devo credere. Vi aspettiamo ogni domenica alle 9 con interviste, esperimenti, storie, filastrocche e tante curiosità. Con Telmo Pievani e Federico Taddia, Terra in Vista, l'Expo come non l'avete mai visto.

le varie possibilità del cibo selvatico e utilizzarle nei momenti di carestia o povertà. Mentre il mio lavoro è un po' più semplice, e diciamo che sono semplicemente una raccoglitrice, cioè vado per ambienti incontaminati ricercando vegetali o parte di essi che sono, possono essere appunto ritenuti adatti al nutrimento umano. Sì. Senti, Fernanda, noi prima di andare in onda dicevamo, ma sì, però si raccolgono, veramente l'ha suggerito Luciano Mazzone, si raccolgono magari in città queste erbe, o non sarà che ci possiamo fidare? Sì. E Fernanda puntualmente ha la risposta, sì. Vai. Apparentemente sì, no, ci possiamo fidare, tanto è vero che ci sono anche delle prove scientifiche, i ricercatori dell'Università di Sheffield hanno fatto uno studio e garantiscono che le particelle inquinanti che si, eventualmente si depositassero su questi cibi, su queste piante, a parte che possono essere facilmente rimosse con un lavaggio molto accurato, ma comunque non si accumulano all'interno dei frutti e quindi questo ci dovrebbe dare delle garanzie. Senti Valeria, ma come si diventa forager e poi che cosa si raccoglie, dove si va, come ci si forma? Sì, allora io ti posso parlare della mia esperienza personale. Certo, mi interessa molto. Sono stata abituata a raccogliere fin da piccola, in quanto è una passione che mi ha passato mia nonna, che era una raccoglitrice un po' per necessità e un po' per professione, abitando in una valle molto isolata sulle Alpi. E questa passione poi me la sono portata avanti, ho studiato antropologia all'università, dove ho trovato comunque delle materie molto attinenti all'argomento, poi ho lavorato in cucina. Sì. Per il resto della mia vita, dove ho potuto approfondire la ricerca sulla materia e quindi anche la limurgia e tutto quello che ne concerne. Per chi volesse avvicinarsi a questa disciplina consiglio di fare dei corsi, di studiare moltissimo, di affidarsi soprattutto all'esperienza di chi è già in grado di raccogliere, in quanto può essere anche molto rischioso. Certo, scusami, e quindi ci sono dei corsi che tu vuoi segnalarci magari? Sì. Dove si possono trovare? Poi... Anche io tengo dei corsi. Bene. Io ho fondato 4 anni fa Wooding Wild Food Lab, che è un vero e proprio laboratorio di ricerca sull'utilizzo del cibo selvatico in cucina. Noi ci occupiamo di formazione soprattutto, quindi offriamo questi corsi che vanno da corsi veramente hobbistici, diciamo, a corsi più professionali, dove chiunque può appunto imparare da zero questa disciplina abbastanza complessa. Cuore e Denari Expo. E abbiamo un altro amico di Cuore e Denari, Luca Voledo, naturopata, nutrizionista a Milano. Buongiorno dottora Voledo. Eccoci, buongiorno. Non potevamo oggi. Abbiamo parlato di erbe e di erbe vogliamo parlare con il dottor Voledo. Tra le piante di cui ci ha parlato la nostra forager, giusto Fernanda, si dice così? Forager, sì. Ce n'è qualcuna utile a scopo salutistico per il nostro benessere, oltre che infilarla in cucina? Lei ha citato il tarassaco, la piantaggine che il dottor Speciani ha nel prato vicino a casa sua, dottora Voledo. E come no, queste sono erbe che hanno anche un lungo uso tradizionale arboristico. Il tarassaco, il dente di leone, il soffione, come si suol dire, è un classico diuretico noto fin dal Medioevo e utile anche per stimolare l'attività della colicisti, la secrezione biliare, quindi una pianta molto molto interessante soprattutto. Ma noi se la raccogliamo cosa ne facciamo oltre che mangiarla in insalata? Un minutino? In un minutino forse è un po' poco, in un minutino, però si possono raccogliere le radici per esempio e con le radici fare un decotto. Sì. Molto utile proprio per questo tipo di utilizzo depurativo primaverile. Un decotto è una preparazione in cui appunto le radici devono essere fatte bollire per una decina di minuti, quindi un po' più lunga che un'infusione normale. Sì, e quindi le lavo bene, le metto in acqua fredda, le faccio bollire 10 minuti. Esatto, si porta a ebollizione, poi si lascia bollire 10 minuti, si spegne, si lasciano ancora in infusione un'altra decina di minuti e poi si sorseggia. Ci vogliono le radici, mentre le foglioline? Le foglie sono molto buone, sono utili anche da un punto di vista arboristico, però per esempio proprio per utilizzate in insalata e essendo crude sono molto ricche di vitamina C in particolare, quindi un contributo anche da quel punto di vista nutrizionale molto interessante. Invece mi dica ma meno sulle autostrade, però viaggiando in macchina, in auto si vedono in questo periodo persone magari di una certa età che vanno in giro a cercare quella che chiamiamo l'insalata amata, stanno cercando esattamente l'erba questa. Cularina viene anche quella. Chiamata così grazie al dottor Voledo, è vero, eh? Sì. Nicoletta, siamo arrivate anche per oggi al momento dei saluti. Ma torniamo domani con l'ultima parte del nostro Meglio di Cuore Denari Expo. Ci sono ancora tanti consigli importanti per le donne in gravidanza e per le famiglie con i figli. Quindi le due categorie che mancano all'appello le tratteremo proprio domani. Esatto. Non mancate. Allora appuntamento a domani alle 11 per concludere in bellezza questa settimana di Cuore Denari Expo.